Sono maliziosa. Mamma come osa. Maliziosa. Mamma come osa. Maliziosa. Mamma come osa. Maliziosa. Mamma come osa. Sono sempre vera sister. Con me su una storia troppo danger mister. Seconda che da grida adesso sta come fossi una star uscita da GTA. Ehi, film, chiudo la TV. Iniziano gli scleri, snipe, play. Danger take away. Filmati come i topi senza nome fanno squisque. Politici, poltrone con minori fanno squisque. Vieni qui in Italy solo per un week. In TV è così anche in Prada Street. Morale su morale questo posto chic. Qui potrà assaggiare quello della loro amico. Volati fanno stop, so violenti fanno bomb. Migliori da dare stock. Passati fanno love, love. Lo stivale dello shock, shock. Sono mamma maliziosa. Mamma come osa. Mamma maliziosa. Mamma come osa. Mamma maliziosa. Mamma come osa. Mamma maliziosa. Mamma come osa. Esplodo nella via, nella mia vita. Con silenzio al limite della follia. Con uno sguardo ti capisco, colpisco. Quei momenti in cui non mi gestisco, no. In silenzio non ci sto, arcobaleno di parole decomposte per mandarti sotto shock. Ed è inutile mentire, i miei occhi hanno raggi X per smentire. Dico troppe bugie per difendermi, rendermi conto che non sai prendermi. Oso come osa la mia sincerità. Più sono sincera e più mi lego ad una fune che strugge senza pietà. Esplodo per lanciarti, infarti e farti nel male se mi tratti. Come io non ti ho chiesto lacrime da coccodrillo. Giusto e brillo, quindi non distratti e parla lindo. Fingo, manco tanto. Sono nociva come lacrime d'amianto. Sono maliziosa. Mamma come osa. Sono maliziosa. Mamma come osa. Maliziosa. Mamma come osa. Sono maliziosa. Mamma come osa.